C'era una volta il petrolio e c'era una volta il gas e c'erano conflitti e tensioni legati a queste due risorse. Già da oggi nel futuro si combatterà per altro, un altro che non ti aspetti, un altro destinato a essere sempre più scarso e inevitabilmente conteso. Le rotte della pesca, i semi di cacao, l'avorio saranno tra i tesori per i quali si combatte e si combatterà sempre di più. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. With climate change, water will become increasingly scarce. The intervention of Chinese timber traders in Mozambique has had a dramatic effect on the forestry sector in the country. Buona domenica, buona serata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. In redazione con me ci sono Antonio Talia, Elisa Pancaldi, Andrea Roccabella a dare musica e ritmo. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi. Twitter, cercatemi, Giampaz, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Lì potrete commentare le tematiche che tratteremo questa domenica, ma anche le prossime domeniche di luglio. Abbiamo deciso di concentrarci su quattro tematiche importanti per poi meglio comprendere la grande attualità internazionale che vi terrà compagnia tutti i giorni ad agosto. Abbiamo parlato di acqua più volte in passato, nel tentativo di esplorare quelle che fossero le dinamiche più profonde di tensioni e conflitti moderni, ma anche petrolio, gas, che hanno scatenato conflitti anche in tempi molto molto recenti. Pensate all'Iraq, pensate alla Libia. Quest'oggi invece indagheremo e vi racconteremo le risorse per le quali si combatterà o si potrebbe combattere in futuro, conflitti locali, magari più piccoli, semplici dispute geopolitiche, storie fatte di sanzioni e ritorsioni, a volte conflitti dichiarati veri e propri. Risorse però che non ti aspetti, dinamiche magari sconosciute ai più, ma per le quali appunto grandi stati o piccole comunità combattono o potrebbero combattere. La lente economica non spiega tutto, ma di certo ci aiuta a comprendere meglio ciò che accade fuori dai nostri confini. E la prima voce che ci aiuterà a comprendere quello che è accaduto con un piccolo sguardo anche indietro nella storia è la voce di Michael Clare, che insegna relazioni internazionali all'Hampshire College nel Massachusetts, Stati Uniti. Un suo libro del 2001 era intitolato Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, e sostanzialmente già nel 2001 il professor Clare cercava di ricondurre i vari conflitti regionali a una più generale guerra per le risorse. Pensiamo, lo dicevo, al caso libico, il 2011, pensiamo all'Iraq. La tesi di per sé non è nuova, ma se andiamo a vedere i paesi nelle quali ci sono state o ci sono tensioni per le risorse energetiche, questa visione ci aiuta davvero a comprendere quello che accade. Iraq, Kuwait, Siria, Nigeria, Sud Sudan e Ucraina. La parte interessante della tesi del professore americano qual è? È che passando alle energie rinnovabili, se più o meno prima o poi ce la faremo, vi dovrebbe essere una riduzione nei conflitti. A Claire abbiamo chiesto innanzitutto cosa è cambiato da quello scenario, quello da lui tratteggiato nel 2001, quando scriveva che il petrolio era la causa delle guerre. Sentite. Quando ho scritto di questo tema nel 2001, la risorsa che più mi preoccupava era il petrolio, e questo perché il petrolio è sempre stato una risorsa capace di scatenare guerre in passato. Ero convinto che il petrolio con il tempo si sarebbe esaurito e che quindi in futuro avrebbe scatenato ulteriori guerre. Ma mi sbagliavo. Con nuovi mezzi tecnologici, come il fracking, abbiamo trovato nuovi giacimenti di petrolio e dunque, se prima avevamo paura che potesse esaurirsi, adesso è sempre più abbondante e quindi non rappresenta più un motivo per combattere. Michael Clare insegna relazioni internazionali all'Hampshire College nel Massachusetts e ci sta aiutando a meglio comprendere con un grand'angolo quello che sta accadendo sul nostro pianeta, la guerra per le risorse. Quale sarà la nuova risorsa principe, il nuovo petrolio, negli anni a venire? Sentite Claire. Guardi, purtroppo credo che la risorsa in questione sia l'acqua. Stiamo assistendo tutti a un cambio climatico che comporterà una maggior scarsità d'acqua e la mia preoccupazione più grande è proprio quella che in futuro possano esserci guerre per questa risorsa. C'è da dire che abbiamo già assistito a questo tipo di guerre in Africa, per esempio nella zona del Sahel, dove diversi gruppi etnici combattono tra loro per l'acqua. Temo che questi episodi saranno sempre più frequenti in futuro. Adesso facciamo una piccola pausa, andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade italiane e poi di nuovo nessun luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona domenica, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati con questa prima puntata di Nessun Luogo Lontano, questi speciali di luglio nei quali vi raccontiamo quattro grandi tematiche che ci aiutano a meglio comprendere quello che accade al di fuori dei confini italiani. In questa puntata parliamo delle risorse che non ti aspetti, quelle risorse naturali per le quali potrebbero scatenarsi nuovi conflitti. Cosa rende una risorsa un motivo scatenante? Scarsità? Concentrazione? La posizione geografica? Il suo valore? L'abbiamo chiesto a Michael Clare, che insegna relazioni internazionali all'Hampshire College nel Massachusetts. Sentite. Si tratta sicuramente della combinazione di diversi fattori. In alcuni casi dipende dalla rarità della risorsa, ma fondamentalmente dipende dal fatto che è vitale. Per far scoppiare una guerra, una risorsa deve essere considerata vitale ed essenziale alla sicurezza nazionale. In passato, alcune risorse come il petrolio sono state considerate vitali per la sicurezza nazionale di uno Stato. Oggigiorno l'acqua rientra in questa categoria di risorsa. E gli Stati arabi del Medio Oriente la ritengono una risorsa indispensabile per la loro sicurezza. Quando una risorsa viene considerata un bene così prezioso, allora scatenerà una guerra. C'è anche un altro problema, e cioè che la maggior parte dei giacimenti di risorse come petrolio, acqua, gas e uranio si trova in aree delicate, dove spesso si registrano tendenze nazionalistiche, e quindi anche il fattore nazionalistico gioca un ruolo determinante. Questo fenomeno si nota chiaramente nel mare del sud della Cina, che è ricco di giacimenti di petrolio e di gas. Infatti la Cina vuole tenersi questi giacimenti tutti per sé, ma la verità è che ci sono stati come il Vietnam, le Filippine e la Malesia, che vogliono impossessarsi di alcuni giacimenti e combattono tra di loro per controllare quelle zone. Per tutte queste nazioni è diventata una questione di tipo nazionalistico e nessuna vuole cedere. Sta diventando veramente un problema. E l'ultima domanda per Michael Clare, docente di relazioni internazionali all'Hampshire College nel Massachusetts, Stati Uniti, è ci saranno guerre anche per le risorse rinnovabili? Detta così suona come un paradosso, sentite cosa dice lo studioso. Mi piacerebbe poterlo pensare. Sarebbe positivo per tutto il mondo, perché non ci sarebbero guerre per le risorse rinnovabili. Ma non posso confermarlo al 100%, perché anche le fonti rinnovabili necessitano di alcune risorse che iniziano a scarseggiare, come il litio. Se useremo sempre più macchine elettriche, avremo bisogno di litio, che è un metallo che inizia a scarseggiare. Quindi temo che nel futuro si possa combattere per il litio o altre risorse della terra che sono necessarie per le energie rinnovabili. E adesso, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, la prima storia che non ti aspetti. È una guerra che in effetti ha dei tratti molto molto curiosi, una guerra che si combatte tra le onde, tra reti e tempeste, miglia e miglia di viaggi nei luoghi più disparati del globo, ed è la guerra della pesca. Il professor Michael Hart insegna scienze ambientali e management delle risorse marine alla Oregon University. Recentemente, in un discorso all'American Association for the Advancement of Science, il professore ha sollevato preoccupazioni in merito a un possibile ritorno delle cosiddette guerre per la pesca. A lui abbiamo chiesto di che cosa si tratta e per quali ragioni si potrebbe o dovrebbe combattere per il pesce. What we're seeing around the world is we're changing climates. We're seeing fish move. Quello a cui stiamo assistendo nel mondo è che a causa dei cambiamenti climatici i banchi di pesce stanno cambiando le loro rotte tradizionali. E mentre i pescatori e tutti coloro che dipendono dal pesce per fornire nutrimento alle loro famiglie non possono attraversare i confini marittimi, i pesci invece sono liberi di spostarsi attraverso le acque territoriali dei vari paesi. Non hanno bisogno di passaporto. Quindi, se i pescatori sconfinano inseguendo i banchi di pesce, possono entrare in conflitto con pescatori di altre nazioni e, a seconda delle leggi, possono essere fermati, arrestati o costretti a restituire il pescato. Ora stiamo assistendo a un aumento delle dispute di questo genere a livello locale e regionale. Il fenomeno a cui fa riferimento e che ci sta raccontando il professor Michael Hart della Oregon University è un mercato, è un fenomeno che vale miliardi e miliardi di dollari e che ha avuto un risvolto, forse lo ricorderete, anche abbastanza recente nei rapporti Italia-Libia. Molto spesso mi sono stati casi drammatici appunto in cui pescatori italiani venivano accusati di aver sconfinato. C'era poi stata una presa di posizione, ma vado tanto tanto indietro nel tempo, di Gheddafi, che aveva arbitrariamente ampliato la zona delle acque territoriali libiche. Questo per dire che sembrano temi lontani, che toccano per esempio il Pacifico e l'Atlantico, ma in realtà anche il Mediterraneo ci ha restituito anche recentemente episodi che sono assimilabili. Qual è l'area più cruciale per eventuali conflitti del genere nelle acque europee? Sentite il professor Hart. There are many areas where this is important and you could look at it. Ci sono diverse aree e si possono osservare due punti di vista. Il primo è l'area più importante per l'Unione Europea e qui ovviamente parliamo del Mediterraneo per le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e l'Atlantico settentrionale per i paesi del Nord Europa. Mentre nazioni come Italia, Spagna e Portogallo, che sono nazioni di pescatori e con un forte consumo di pesce, potrebbero trovarsi in situazioni di tensione solamente a causa dei cambiamenti climatici e del cambio delle rotte dei banchi di pesce, a nord potrebbero sorgere tensioni con il Regno Unito a causa della Brexit. In altre aree del mondo, invece, un punto critico è il Mar Cinese meridionale, dove in questo momento ci sono fortissime tensioni tra nazioni come Cina, Vietnam, Malesia, Filippine, Indonesia, e lì non ci vuole molto perché qualche forma di scontro tra pescherecci rivali si trasformi nella scintilla che provoca l'intervento delle marine militari delle nazioni coinvolte. Oppure guardiamo al Pacifico orientale, dove ci sono immense riserve di tonno. Anche lì diverse nazioni rischiano di perdere moltissime riserve di pesce a causa del cambiamento delle rotte. Allora, come vi dicevo, il denaro, le cifre sono molto molto alte, quelle in ballo. Sentite di che cifre parla il professor Hart. Prendiamo ad esempio il Nord Atlantico orientale. Ci sono 51 specie diverse di pesce alle quali attingono Islanda, Norvegia, Isole Faroe, l'Unione Europea e adesso, con la Brexit, il Regno Unito. E queste specie sono tutte affette dal cambiamento climatico. Per la maggior parte di queste specie di pesce parliamo di un valore di mercato di 6 miliardi di dollari all'anno. Nel Pacifico le stime sulle specie affette dal fenomeno si attestano attorno ai 2 miliardi di dollari. E quali potrebbero essere le contromisure attuate dai governi anche in sede internazionale per evitare che semplici dispute economiche o di natura più ampiamente geopolitica si trasformino in prima scaramucce militari o poi addirittura in conflitti dichiarati? Sentite. Per la maggior parte delle riserve di pescato esistono degli accordi tra i governi. Norvegia, Islanda, Isole Faroe e Unione Europea hanno stipulato dei trattati. In generale, se parliamo di mantenere una situazione chiara e pacifica, si tratta di ratificare accordi tra grandi coalizioni tra stati, ma le nazioni devono vedere il vantaggio di appartenere a queste coalizioni e devono essere sicure di ottenere una giusta percentuale del pescato e che nessuna nazione al di fuori della coalizione arriverà a reclamare risorse che non le appartengono. Ma mentre la situazione climatica cambia e aumentano i nazionalismi, queste coalizioni tra stati potrebbero anche essere ridiscusse, modificate o addirittura scomparire. E ciò mette a rischio la sostenibilità di tutto il sistema. Basta guardare al caso dei macro stock, quando nel 2012 Norvegia, Islanda e Faroe si sono ritirate da una parte di accordo. Molto pesce si era spostato a nord e queste nazioni hanno ritenuto che l'accordo fosse diventato ingiusto, perché dovevano cedere molto del loro pescato a chi non aveva fatto nulla per ottenerlo. Poi le varie nazioni si sono sedute a un tavolo e si è siglato un nuovo accordo che ha evitato un'escalation. E quanto le contese per una risorsa così speciale, così peculiare come il pesce, l'avete capito, non hanno passaporti, i banchi di pesci si muovono attraverso acque territoriali diverse, stessa cosa non possono fare gli addetti ai lavori, chi devono appunto andarli a pescare. Moltiplicate questo per migliaia e migliaia di zone di pesca, moltiplicatelo per diverse specie di pesce, abbiamo un mercato miliardario a volte conteso da potenze militari. Quanto è alto il rischio di un conflitto? Penso che si possa arrivare a una schermaglia militare per contendersi le rotte di pesce. La maggior parte di queste dispute sono e saranno dispute commerciali. Alcune nazioni useranno armi economiche per convincere altre nazioni a ridefinire gli accordi. Ma ci sono anche molte zone del mondo che sono attraversate da tensioni territoriali. E ci sono buone possibilità che un gruppo di pescherecci che sconfina si trasformi nella scintilla capace di far esplodere queste tensioni, o quantomeno in una scusa per farle esplodere. E questo era il professor Michael Hart, che insegna scienze ambientali alla Oregon University, in questa puntata di Nessun Lago Lontano, tutta dedicata allo studio di quelle risorse, quelle che meno ci aspettiamo ma che potrebbero essere, per la loro importanza, motivo scatenante di conflitto. Adesso una piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora una buona domenica, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati in questo programma che quest'oggi sta investigando quelle che saranno e che sono le risorse, quelle più note, più bizzarre, più curiose, meno conosciute, per le quali però invece si scatenano appetiti internazionali e a volte veri e propri conflitti. Grazie ai nostri ospiti, fotografi, analisti, professori, giornalisti, stiamo raccontandovi le risorse del futuro. Ma vi sono luoghi sulla Terra che le assommano queste risorse e che quindi costituiscono opportunità e quindi anche possibili motivi scatenanti di conflitti, il tutto in poche centinaia di chilometri quadrati, paradisi o inferni. Esiste vicino alla costa africana una vera e propria isola del tesoro ed è lì che vi porto. Ci ha messo piede non è un bucaniere, anzi forse un bucaniere lo è, perché è un fotogiornalista, si chiama Giulio Di Sturco, due volte WordPress Photo, vive tra Londra e Bangkok, autore di grandi reportage a livello internazionale. E beh, lui ha messo piede in Madagascar e ha scoperto cose molto molto interessanti. Ma guarda, io sono andato in Madagascar la prima volta 3 anni fa, fare una storia per commissionato per Vanity Fair sul cacao, sull'industria del cacao in Madagascar, che si trova nella zona nord-ovest del Madagascar, sì. Che è una piccolissima zona, una micro-regione con un microclima molto favorevole sia per il cacao che per la vaniglia. Quindi mi sono ritrovato in questo luogo bellissimo, tra l'altro, dove coltivavano questo cacao che è considerato uno dei cacao più pregiati al mondo. Mm-hmm. Però mi sono ritrovato in questa comunità poverissima di agricoltori, di contadini. Poi però hai scoperto il lato oscuro dell'industria del cacao. Sì, in realtà noi eravamo andati proprio per quella storia all'inizio, poi sono tornato, ho visto che la storia era abbastanza interessante, quindi sono tornato altre 3 volte. E la storia è che in questa regione, dove c'è il cacao migliore al mondo, dove c'è anche la vaniglia, delle pietre preziose, altre cose, Si sono create, visto che la ricchezza non è distribuita in modo equo, ovviamente, sì, si sono create queste gang di poveri che si fanno le pistole da soli, quindi è tutto una cosa abbastanza medievale, sì, e cercano di prendere il cacao, di rubare il cacao tra i contadini più poveri soprattutto, sì, e quindi si è creata questa guerra tra i contadini che si difendono con dei giavellotti, con delle asce, come possono, e queste gang di ragazzini, alla fine sono quasi tutti ragazzini, che cercano di rubare il cacao e rivenderlo sia alle multinazionali, sia a rivenderselo in nero, perché a un certo punto il prezzo del cacao era andato molto molto in alto, e quindi era considerato come l'oro di questa regione. Nel periodo in cui ero lì, quando siamo arrivati, 2 giorni dopo, ci sono stati 2 omicidi, uno una guardia di un campo di cacao era stata uccisa dalle gang, e 2 giorni dopo la polizia ha ucciso uno di questi, un ragazzino che faceva parte di una gang. Quindi c'era proprio una guerra in atto, sì, nel momento in cui c'eravamo noi. Sì. Per dare una dimensione di quanto può valere il cacao, vi cito i dati della World Cocoa Foundation. Il 68% di questa preziosa risorsa proviene dall'Africa, il 17% dall'Asia e il 15% dalle Americhe. In Africa i primi produttori sono Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria e Camerun. È un mercato, attenzione, che è in crescita costante. Si calcola che nei 6 anni, tra il 2008 e il 2014, si è cresciuto in media del 3,1% l'anno, fino a una produzione annua che è pari quest'oggi a 4,8 milioni di tonnellate. E in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui raccontiamo conflitti che si scatenano per risorse inaspettate, come appunto può essere il cacao, le foto di Giulio Di Sturco, lo ricordo, 2 volte WordPress foto, lui vive tra Londra e Bangkok, ci danno, come dire, una buona sensazione di quella che è un conflitto, ovviamente a bassa intensità, che però ha i suoi impatti anche sulla popolazione. Grazie mille Giulio Di Sturco, fotogiornalista. GiulioDiSturco.com è il suo sito, se volete vedere i suoi lavori. Grazie mille Giulio, buon lavoro. Grazie a te, grazie. Alla prossima. Mille. Ed era Giulio Di Sturco, fotogiornalista, 2 volte WordPress foto, vive tra Londra e Bangkok, come vi dicevo, è grande autore di reportage, tra cui questa storia in più puntate, in più riprese sul Madagascar, che ci ha svelato come esistono le isole del tesoro, cioè grandi concentrazioni di risorse e opportunità tutte in un'unica isola, con i conflitti e le tensioni che Giulio ci ha molto ben restituito con parole e con immagini. Restiamo nel continente africano perché c'è un'altra storia di una risorsa principe, fondamentale, importantissima. Noi tutti abbiamo, quasi tutti, uno smartphone in mano o ci affidiamo all'altissima tecnologia. Ebbene, c'è una componente sulla quale si basa questa tecnologia che si chiama coltan, e vi porto allora in Repubblica Democratica del Congo. E lo facciamo con Giuseppe Cioffo, analista per EURAC, che è una rete di ONG europee che si occupa proprio di studi sull'Africa centrale. Beh, Giuseppe Cioffo, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie, Gian Paolo. Allora, Giuseppe, partiamo dalla definizione di coltan. Io ho accennato, come dire, attingendo alle mie scarse conoscenze chimico-fisiche, è l'unione di 2 elementi, è una sabbia nera che io ho avuto la fortuna di tastare tra i miei polpastrelli. Ho anche visitato alcune miniere nella zona appunto del Masisi, nel nord Kivu. Che cos'è il coltan e perché è così importante? Il coltan, come dicevi tu, è una miscela di columbite e tantalite, da lì che viene il nome coltan, ed è un minerale che è utilizzato fondamentalmente nei circuiti elettrici, nei condensatori e in moltissimi dei componenti negli apparecchi elettronici che troviamo ogni giorno, che utilizziamo ogni giorno, come cellulari, computer, ma anche dispositivi medicali e molti altri tipi di tecnologie. Quali sono gli attori che ruotano attorno a quella zona specifica del nord Kivu? Posso già anticipare, sono stati stranieri, ma sono anche multinazionali, quindi soggetti privati e soggetti statali. Aiutaci a capire meglio. Per quanto riguarda gli attori a livello statale e regionale, abbiamo ovviamente lo Stato congolese, che in teoria dovrebbe essere quello che profitta dalle ricette, diciamo, dal valore prodotto dalla esplotazione, dello sfruttamento delle risorse di coltan, ma col tempo e soprattutto quella storia di conflitti che sono ancora presenti in Congo e che datano almeno dagli inizi degli anni 90 o dall'indipendenza negli anni 60, la rete degli attori si è parecchio complicata. Il Congo è passato attraverso due guerre negli ultimi 30 anni, una negli anni 90, diciamo dal 96 al 97, che è chiamata di solito la prima guerra del Congo, in cui però lo sfruttamento del coltan da parte dei gruppi armati era più o meno relativo, perché siamo ancora in un periodo in cui il valore del Congo, del coltan a livello internazionale, era relativamente basso rispetto agli altri minerali. Con la seconda guerra del Congo, dal 98 al 2003, cominciamo ad avere un interesse di vari gruppi armati che si precipitano, diciamo, a controllare le zone miniere in cui il coltan viene estratto, e questi gruppi armati sono sia nazionali congolesi che provenienti dai paesi vicini della regione, e in particolare all'epoca dal Ruanda e dall'Uganda e dal Burundi. Però, stando sui giorni nostri, come viene esportato il coltan? Cioè, nella filiera, anche commerciale, cosa accade? Quando quei minatori di cui parlavi, a $10 al giorno, hanno estratto il sacco di coltan, che cosa accade a questo coltan? Questo coltan viene... viene innanzitutto, come dicevi, viene estratto da una serie di minatori artigianali. Una volta che il coltan viene estratto dai minatori, viene portato a dei comptoir, a dei banchi di vendita, diciamo, dove dei commercianti lo vendono poi alle persone che processeranno questo coltan, sì, e che quindi lo renderanno lavorabile, diciamo. Una volta fatto ciò, è là che il coltan lascia il paese per entrare nel circuito di produzione internazionale. Sì. E a questo livello, prima che il coltan esca dal paese, nel momento in cui viene esportato, che diciamo abbiamo la più grande, l'estrazione del valore più importante di risorse, a livello della mina ci sono i gruppi armati che spesso impongono tasse illegali. Sì. Sulle quantità prodotte di minerali, oppure impongono tasse alle persone che vogliono accedere alla mina per lavorarci. Sì, sì. E poi c'è un grosso problema di frode internazionale, soprattutto per l'esportazione verso il Ruanda, il Burundi e l'Uganda, in cui la tassazione è più favorevole rispetto al Congo sulle esportazioni, per cui spesso conviene ai commercianti locali o ai gruppi armati stessi contrabbandare passando per la frontiera orientale del Congo, in modo da evitare di pagare tasse e di poter esportare i minerali verso l'Europa. Giuseppe, ti interrompo perché recentemente c'è stata una presa di posizione legislativa, no, da parte dell'Europa proprio sul commercio di coltan. Se sinteticamente mi puoi spiegare che cosa è accaduto in sede europea? Sì, in marzo di quest'anno il Parlamento europeo e poi in seguito il Consiglio hanno approvato una legislazione di diligenza ragionevole per la produzione di minerali di conflitto, il che include il coltan, ma anche lo stagno, il tungstenio e l'oro. E questa legislazione obbliga gli importatori europei a assicurarsi che le imprese dalle quali si approvvigionano di queste componenti e di questi minerali siano conflict free, come si dice tra virgolette, vale a dire che non contribuiscano al finanziamento di gruppi armati che sono impiegati in grosse violazioni dei diritti umani e in abusi e violenze contro le popolazioni locali. Grazie mille Giuseppe Cioffo per essere stato con noi. Grazie Giampaolo, ciao. Adesso una piccola pausa, andiamo sulle strade italiane, vediamo com'è la situazione sul traffico e poi di nuovo vi aspetto qui a Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ancora una buona domenica da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche dalla mia redazione Antonio Tale e Elisa Pancaldi, a confezionare questa prima puntata di Nessun Luogo è Lontano, tutta dedicata ai conflitti che nascono per le risorse più scarse, quelle più concentrate, magari in poche mani, quelle che non ti aspetti. In questa puntata speciale, in questa domenica di luglio, abbiamo anche deciso di raccontare un'altra storia, che è una storia sempre a livello internazionale, ma è una storia che riguarda ancora una volta l'Africa e ancora una volta il colosso cinese, perché molto molto spesso la presenza cinese in Africa è una presenza spregiudicata, è una presenza sbilanciata, visti anche i numeri, e come dire, un atteggiamento non muscolare, però economicamente anche aggressivo. E vi raccontiamo quella relazione che esiste tra la Cina e il Mozambico ed riguarda proprio il traffico e il commercio di legname. Abbiamo raggiunto Iago Wadley, che è ricercatore all'Agenzia Investigativa Internazionale sull'Ambiente. È un ente che compie investigazioni proprio sui crimini ambientali. Sentite che cosa dice Iago Wadley. Sì, il dossier preparato dalla EIA, Environmental Investigative Agency, in Mozambico e in Cina, si concentra sul mercato del legname. Nel 2013 il Mozambico è diventato per la Cina il fornitore numero uno di legname tra tutti i paesi africani e la Cina è il primo importatore di legname al mondo. L'arrivo della Cina ha determinato un impatto fortissimo sulla produzione del Mozambico e purtroppo ha scatenato un'ondata di reati che hanno messo a dura prova la governabilità del paese e hanno alimentato la corruzione, esercitando un'immensa pressione sulle riserve di legname e generando tensioni tra gli attori locali che vogliono controllare questo tipo di risorse. Quanto vale questo mercato? Sentite Iago Wadley. I dati disponibili ci mostrano che nel 2014 la Cina ha importato dal Mozambico circa 335 milioni di dollari di legname. Lo scorso anno erano stati 290 milioni di dollari e nei primi quattro mesi di quest'anno si parla di oltre 100 milioni di dollari. Bisogna ricordare che alla fine del 2016 il Mozambico aveva posto un divieto alla vendita all'estero di ogni tipo di legname. Quindi i 100 milioni del periodo gennaio-aprile 2017 derivano tutti da esportazioni illegali. Insomma, parliamo di centinaia di milioni di dollari all'anno. Ed era Iago Wadley, ricercatore dell'Agenzia Investigativa Internazionale sull'Ambiente, che ci ha sommariamente spiegato la natura dei rapporti tra Cina e Mozambico, un paese africano appunto ricchissimo di risorse di legname, e quanto gli appetiti cinesi si siano posizionati appunto su questo paese. Continuiamo il nostro viaggio all'interno delle risorse con l'ultima voce di questo nostro racconto. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano a Gianfranco Bologna, direttore scientifico WWF Italia. Dottor Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, in questa puntata in cui stiamo cercando di tratteggiare quelle che saranno le risorse per le quali si combatterà nel futuro, il capitolo ambientale è un capitolo estremamente corposo. Il WWF da tempo è impegnato su alcune battaglie importanti, però forse un primo cenno, dottor Bologna, la merita forse una forma mentis, un cambiamento di attitudine che dovremmo avere rispetto alle risorse del nostro pianeta. Attenzione, non è un discorso puramente ideologico o utopistico, ma è qualcosa di estremamente concreto. Assolutamente sono d'accordo, è un discorso estremamente concreto. Noi abbiamo un bisogno estremo, dimostrato dalla conoscenza scientifica, che ci dice la pesantezza dell'intervento che oramai abbiamo esercitato nei confronti dei sistemi naturali e gli effetti devastanti che se ne stanno derivando, tanto che mettono in discussione anche la nostra stessa capacità di benessere e di sopravvivenza. C'è una guerra che si combatte da tempo, per esempio, della quale vi siete occupati anche voi, che è quella per l'avorio, per esempio. Facciamo una piccola menzione su questo aspetto così apparentemente limitato, poi vediamo che è anche un fenomeno transnazionale, quindi con delle implicazioni importanti. Certamente è un fenomeno transnazionale e oramai fa parte di quelli che vengono definiti crimini ambientali, crimini di natura. Non a caso il programma Ambiente delle Nazioni Unite, che pubblica aggiornamenti costanti e continui su questa situazione del valore economico dei crimini ambientali e di quello che c'è dietro a questa dimensione, e questi rapporti vengono fatti anche con Interpol, perché oramai quello che c'è dietro a questi grandi commerci, in particolare qui stiamo parlando, lei mi citava l'avorio, e quindi stiamo parlando, diciamo, del prelievo del commercio illegale di specie selvatiche, ha una valutazione globale intorno ai 23 miliardi di dollari annui. Pensate che oramai negli ultimi anni abbiamo avuto una perdita di circa 20.000 individui di elefanti africani ogni anno. In 10 anni abbiamo perso il 20% della popolazione degli elefanti africani, oggi siamo intorno a 415.000 esemplari. Io, quando mi sono iscritto al WWF, ero abbastanza giovane, nel 1970, e avevamo circa 1,5 milioni di elefanti africani. Quindi rendetevi conto dell'assurdità di questa cosa, che ha a che fare con un prodotto che è l'avorio, che non ha nessun valore d'uso, soltanto un valore di scambio, e che di fatto oggi è diventato un vero e proprio oggetto di mercato nero. Pensate, oggi l'avorio al chilo viene addirittura valutato oltre $3,000, sta parlando del chilo di avorio, $3,000 a livello di mercato internazionale. Dietro questo mercato internazionale ovviamente c'è una dimensione di crimine ambientale che ovviamente non tiene conto del costo anche umano, sociale e politico, perché c'è una schiavitù infantile utilizzata per la raccolta illegale di queste risorse, gli omicidi, i saccheggi, le minacce perpetrate dalle bande armate di bracconieri come ritorsione, le comunità locali vessate e utilizzate in modo strumentale per l'esercizio di queste illegalità, e quindi c'è una dimensione di corruzione e di illegalità diffusa che vede oramai coinvolti anche i gruppi terroristici. Grazie mille a Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF Italia. Era l'ultima voce di questo racconto di questa domenica di luglio, prima puntata di Nessun Luogo è Lontano, la nuova stagione. Adesso Andrea Roccabella, i titoli di coda. Con i quali ringrazio voi per essere stati all'ascolto: Antonio Tali, Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me questa puntata speciale, Andrea Roccabella, che gli ha dato la musica e il ritmo giusto. E seguiteci sui social, Giampaz, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24 su Facebook. L'appuntamento è domenica prossima, ore 19:10, con altre storie, e quando ancora nessun luogo sarà lontano. Un saluto e una buona serata da Giampaolo Musumeci.